Mi scusi, per caso ad accendere? Sì, certo, prego. Grazie mille. Niente. Non è che per caso sa anche l'ora? Perché? Non sa che ora è? Perché, mi scusi, che ore sono? Cavolo, è l'ora di Region Air! Proprio così, l'ora di Region Air, 16:14 minuti primi e 54 secondi precisi precisi del nostro bellissimo orologio. Scusate, lo ripeto tutte le volte, ma è proprio bello, bello, bello. 0649 1750, il numero di Radio Onda Rossa, ondarossa@ondarossa.info, il recapito di posta elettronica, regionair@ondarossa.info, il recapito elettronico della trasmissione. Andiamo avanti con un altro pezzo musicale prima di iniziare i nostri approfondimenti e discorsi per le prossime mobilitazioni studentesche. Llego a Puerto, voy para Mayarín. El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Chan chan, en el mar servía arena, como sacudí el jibe, a chan chan le daba pena. para Mayarí. De Arrocero voy para Matané, llego a Puerto voy para Mayarí. E i grandi Buena Vista Social Club naturalmente ad accompagnarci alle 16:20 di questo martedì 15 novembre 2011. Andiamo ad iniziare la nostra trasmissione. Vi ricordiamo che siamo Region Air, oggi purtroppo lasciati la soli due. La trasmissione di studenti, sì, esatto. Degli studenti medi. Siamo solo noi uomini, le ragazze ci hanno lasciato da soli, non sono volute venire... E quindi super impegnate naturalmente per il collettivo e la cittadina che oggi si terranno per decidere sulla manifestazione del 17, di cui andremo a parlare in questa puntata di oggi, non solo sul livello romano ma a livello nazionale. Quindi avremo in collegamento dei ragazzi da Torino, Milano e... forse se ci riusciamo Bologna, sicuramente Palermo e magari un aggiornamento anche proprio dall'assemblea cittadina di Roma. Intanto ci ascoltiamo ancora un po' di musica, ci piace fare la trasmissione leggera. Noi vi ricordiamo ancora una volta il recapito telefonico, se ci voleste chiamare, 06 4917 50, il recapito telefonico ondarossa@ondarossa.info, la mail. Bella e seducente, è solo mia, sempre più attraente, non resisto e così sia. Con quella sua linea essenziale ed elegante, possederla un'esperienza intensa ed esaltante. Da quando l'ho incontrata non sono più lo stesso, la mia vita è migliorata, non sono mai depresso. Ogni santo giorno ho una gran voglia di saltare, con un balzo in sella e cominciare a pedalare. Pedalare, pedalare, pedalare, pedalare, pedalare, pedalare, pedalare. Con la sua meccanica semplice e perfetta, vola, vola, vola sulla bicicletta. Con la bandierina, lo specchietto e la trombetta, vola, vola, vola sulla bicicletta. Se ne va a fare la spesa col triciclo la vecchietta, vola, vola, vola sulla bicicletta. Con il campanello, col cestino e la pompetta, vola, vola, vola sulla bicicletta. Vola sopra il traffico, vola sullo smog, risparmio la benzina, mi diverto e faccio sport. Questa è la mia droga, non ne posso fare a meno, se il tragitto è lungo me la carico sul treno. Macchine, chilometri, fatichi sempre poco, con un carrollo al seguito può fare anche un trasloco. Me la porto in casa, vado su con l'ascensore, la prendo alla parete, poi la lucido per ore. Veleggio, pedalo senza fretta, plano e galleggio sulla mia bicicletta. Se Secondo me è un gioiello di tecnica applicata. Il genio dell'umanità sta in una pedalata. È il fiore all'occhiello dell'ingegneria, l'infallibile congegno ad orologeria. Ce ne andiamo in piazza, per il centro oppure al mare. Lei mi porta al parco a far la spesa, a lavorare. Col sorriso in faccia e con il vento tra i capelli, sempre in giro insieme, che momenti sono quelli. Pedalare, pedalare, pedalare, pedalare, pedalare, pedalare, pedalare. Per un mondo più pulito questa è l'unica ricetta. Vola, vola, vola sulla bicicletta. Contro la cultura del consumo usa e getta. Vola, vola, vola sulla bicicletta. Essere felice come un tempo dammi retta. Vola, vola, vola sulla bicicletta. Fai viaggiare in tondo oppure andare in linea retta. Vola, vola, vola sulla bicicletta. Vola sopra il traffico, vola sullo stress. Vola sull'asfalto, sul serrato, sul pavè. Fa bene allo spirito, benissimo all'ambiente. Non esiste mezzo di trasporto più efficiente. Se incontro una salita e la storia si fa attesa, prima ancora che sia finita già pregusto la discesa. Vando alla pigrizia, dico largo all'allegria. Tutti in sella a pedalare in compagnia. Veleggio, pedalo senza fretta. Plano e galleggio sulla mia bicicletta. Velocipede, che grande invenzione. Con la bici noi faremo la rivoluzione. Velocipede, che grande passione. Libera la mente, il corpo e l'immaginazione. Con la benedizione di Santa Graziella, santa tutelare di chi viaggia a pedivella. Niente più benzina, niente bollo da pagare. Tanta pasta asciutta e poi trazione muscolare. Velocipede, che grande invenzione. Sviluppa l'endorfina, attiva la circolazione. Velocipede, che grande passione. E non prendo più né multa né contravvenzione. Velocipede, che grande invenzione. E questi allora erano Le radici nel cemento con Vola Vola sulla bicicletta. Alle 16 e 24 minuti primi sottoscrivete alla radio, un annuncio che facciamo sempre, conto corrente postale 618-04001 da intestare a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56-00185 Roma. E allora andiamo a iniziare la nostra trasmissione parlando della giornata che... di mobilitazione che si vedrà il 17 novembre. E, ci fanno qualche segno dall'altra parte di un errore, ma forse era sull'orario, non lo so, non si capisce. Oh, ci fanno gli scherzi, ci boicottano. Va bene, allora continuiamo. Insomma, volevamo iniziare la trasmissione parlando di questa giornata del 17 novembre che vedrà gli studenti medi scendere in piazza insieme agli universitari per continuare il movimento di quest'autunno, dopo la giornata del 3 novembre in cui gli studenti sono stati sequestrati letteralmente all'interno di Tiburtina dalle forze dell'ordine. Non si fanno spaventare, non si fanno intimidire e riescono dalla tana proprio in questa giornata che si vedrà giovedì. Appunto, come introducevamo prima, la giornata non sarà solo una mobilitazione a livello romano, cittadino, ma si mobiliterà tutta Italia. E appunto a livello cittadino gli studenti medi romani si muoveranno da Piazzale Aldo Moro con gli universitari per ribadire anche un concetto di manifestazione libera che il 3 si sono visti vietare. E si sono visti bloccati in piazza dalla polizia, che come al solito ha represso subito con la violenza una piazza pacifica che cercava di riprendersi un diritto tolto ingiustamente dal sindaco Alemanno. E quindi si riscende in piazza il 17 con allegria assieme agli universitari, dimostrando che i diritti non ce li facciamo togliere facilmente e soprattutto che questa crisi non è nostra e il fatto che sia caduto un governo non risolve tutti i nostri problemi, ma c'è bisogno di un impegno maggiore di tutta la classe politica e quindi scendiamo per dimostrare che la nostra la nostra, i nostri anni, insomma, la nostra generazione non può essere schiacciata da un debito e non può essere schiacciata dalla prepotenza dei politici. E allora lanciamo subito l'appello, scendete tutti quanti in piazza il 17 novembre 2011, il prossimo giovedì, concentramento a Piazzale Aldo Moro alle ore 9. Intanto abbiamo avuto conferme che si trattava proprio di uno scherzo, ci stanno proprio boicottando. Li facciamo vedere noi, finiamo alle 5 e mezza oggi, ok? Oh. I tuoi amanti come fossero mie. Vuoi solo le cose che non hai. Parli delle cose che non sai. Cerchi di giocare ma non vuoi. Pensi solamente ai fatti tuoi. Contessa, tu non sei più la stessa. Vuoi che io rimanga nel tuo letto per poi sbattermi su e giù? Non ti lamentare se domani non ti cercheremo più. Ma vorrei soltanto averti qui. Sei accattivante già così. Ti difendi con il DDT. Fai pensare troppo coi tuoi sì. Ogni cosa di concreto sia da riferire a te. Tu fai la misteriosa per nascondere un segreto che non c'è. Ma nel tuo castello come va? Vivi la tua vecchia nobiltà. Non sai neanche tu la verità. Vendi a caro prezzo la realtà. Insomma, il 17 di novembre 2011 vedrà questa giornata di mobilitazione in cui studenti medi e universitari si cominciano a coordinare, si uniscono per una protesta che è comune, l'obiettivo è comune, siamo tutti giovani, siamo della stessa generazione, una generazione che diceva, come diceva giustamente il compagno, non si fa schiacciare da questa classe politica che cerca in tutti i modi di farci pagare la crisi a noi, ma noi lo gridiamo forte, non ci fermiamo e la crisi non la pagheremo. Andiamo adesso ad ascoltare ancora un altro pezzo e poi cominciamo a fare un quadro generale di quello che accadrà nelle altre città italiane anche il 17 novembre, collegandoci con diverse città. Cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura? Ce lo rivelano gli occhi e le battute della gente. O la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente.

Ho capito, perfetto. E allora niente, se ci vuoi lanciare il concentramento che avete, magari qualcuno sta ascoltando la radio online. Certo, il concentramento sarà alle ore 9 in Piazza Albarello, ci partiranno due cortei, da lì probabilmente uno che si dirigerà a fare il blocco metropolitano, uno che farà la campata tutto Banca Italia. L'obiettivo appunto è quello di iniziare ad appuntare le pratiche per uno sciopero metropolitano da rivivificare come nuova forma, insomma, di lotta alla crisi in un momento in cui i lavoratori hanno difficoltà a scioperare, in cui gli studenti sanno che non basta più la pratica del semplice corteo e quindi ci si muove in questa maniera. Ho capito, perfetto, ti ringraziamo e ci andiamo a aggiornare la prossima settimana dopo il corteo. Dai, ciao, grazie mille. Ciao, ciao, ciao. Un cantante militante, toni controcorrenti in questo giubileo, stelle cadenti e baci sotto al Colosseo. Spengo la luce e sogno le stelle delle Antille, ma il ritmo della noce anche a Roma vola a mille. Vengo dal Colosseo col vespino rosso Bordeaux. Prima me fa una piotta, de seconda non ce lo so. Vengo dal Colosseo, col vespino rosso bordò. Se prima me fa una piotta, de seconda non ce lo so. Vengo dal Colosseo, col vespino rosso bordò. Se prima me fa una piotta, de seconda non ce lo so. Con la terza mese in grippa, e la quarta non ce l'ha. Mambo del giubileo, tutto il mondo una sola città. Tequila! Sì, io so chi è stato. M'hanno tolto la speranza nella stanza. Resta solo un vuoto immane. Resta il solco dello squarcio di un dolore infame. Per chi rimane è il netto di un verdetto senza piglio. Mai dovrebbe un padre sopravvivere ad un figlio. È un giglio deposto al capezzale. Non placa tutto il male. L'ha ucciso un'altra volta quel giornale. Ma quale morte accidentale? Quanto vale questa morte per la corte al tribunale? Non è normale. Qua si muore anche di stato. Le guardie l'hanno ucciso senza l'ombra. Allora, quella di prima era Io vengo dal Colosseo di Piotta, ci siamo dimenticati, e continuiamo il nostro giro di corrispondenze per sapere che cosa succede in Italia al 17. Abbiamo in corrispondenza una ragazza di Milano, ci senti? Sì, ciao. Ciao, ecco, appunto, come abbiamo già chiesto prima a Torino e come abbiamo raccontato di Roma, volevamo sapere anche di Milano come si mobiliteranno gli studenti. Ma noi ci stiamo preparando a scendere in piazza con un corteo da, speriamo, decine di migliaia di studenti. E ci sono già un sacco di picchetti organizzati, le ispezioni delle zone che stanno organizzando per arrivare in piazza più numerosi possibili. E appunto il corteo che è la giornata mondiale dello studente andrà a dire che noi vogliamo i soldi per la scuola, per l'istruzione e per il welfare. Se da un lato noi raccogliamo anche la call for action di Wall Street, scendo, sì, noi siamo al 99% join the global resistance e tutto quanto, siamo l'unica generazione del debito rivolta contro questa casta, in più anche sull'Italia diciamo che va bene il Senato Berlusconi, ma prima di tutto con la campagna Occupy Berlusconi stiamo dicendo che a noi non, di sicuro comunque non ci piace che questo piccolo Rice possa andarsene a svernare ai Caraibi con tutte le ricchezze che ci ha rubato in questi ultimi 20 anni. Riprendiamoci quello che ci spetta per la scuola e per il welfare. E dall'altra parte la legge di stabilità appena approvata prevede tagli, prevede finanziamenti per più di 200 milioni di euro alle scuole e alle università private dei preti, prevede più di 700 milioni di euro per le spese militari della mininaia, così non va né Monti né Berlusconi né nessun altro che mette i soldi in queste cose tagliandole poi in nome dell'austerity alla scuola pubblica e ai servizi. Quindi tanto per cominciare, se il nuovo governo è lì per tagliare, cominci da lì: zero soldi alle scuole private dei preti, zero soldi

Sì, sì, mi sento. Ecco, abbiamo sentito appena adesso Torino e Milano che ci raccontavano quello che si farà il 17 novembre da loro in piazza. Raccontaci quello che si farà a Palermo. Sì, anche noi ovviamente scenderemo in piazza il giorno 17. Abbiamo deciso di allargare questa grande giornata che in tutti questi anni è stata, diciamo, un po' strumentalizzata da quelle che sono le associazioni, no, sindacali, studentesche, da UDS, ARED, Rete Studenti Medi, e invece di renderla una giornata di lotta trasversale nella città di Palermo abbiamo deciso di declinarla come sciopero metropolitano, quindi scendere in piazza al fianco degli studenti, anche quella che è la fascia degli universitari, dei precari, dei senza casa, dei lavoratori in nero, gli operai, insomma, fare una piazza più trasversale possibile che possa andare ad adottare quelle che sono le parole d'ordine utilizzate in quest'autunno, quindi il rifiuto della crisi, il rifiuto del debito, lotta contro qualsiasi partito, sindacato che cerca di rappresentare gli studenti, proprio perché a partire dalle nostre scuole, ma anche nelle nostre città, in tutto il paese, abbiamo visto come la caduta del governo Berlusconi non è andata, diciamo, a rappresentare il blocco della lotta, il blocco delle nostre richieste, dei nostri bisogni, proprio perché vediamo come non ci rappresenta nessun partito, nessun sindacato e nessun governo della BCE. Ora, le due giornate che abbiamo, in cui siamo scesi in piazza a Palermo, hanno dimostrato che il tessuto studentesco sicuramente è pronto per andare ad affrontare quello che è un nuovo autunno caldo, ricco di conflitto, e pensiamo, speriamo che anche questo giovedì sarà la stessa cosa. Abbiamo dato un concentramento a Piazza Massimo alle 9 per una giornata che sicuramente non finirà con la solita sfilata nelle strade di Palermo, ma che speriamo che potrà incidere realmente nel blocco dell'economia metropolitana delle nostre città. Perfetto, mi sembra che le parole d'ordine sono comuni in tutta Italia, insomma speriamo di riuscire a continuare questo movimento, sicuramente ci riusciremo, ti ringraziamo e allora ci andiamo a sentire sia giovedì che poi nella prossima trasmissione per fare un riepilogo, insomma. Assolutamente, ci sentiamo dopo giovedì. Perfetto. In bocca al lupo a tutte le città, ciao. Grazie, ciao. Sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa con Region Air. Prima di andarsi a collegare adesso con Bologna, ci ascoltiamo questo pezzo degli Arctic Monkeys, A Certain Romance. Carry on that way, but I said no. Oh no. What can I say? I've known him for a long, long time, and it might overstep the line, but you just cannot get angry in the same way. No, not in the same way. Ed ecco in collegamento un ragazzo di Bologna, volevamo fare una corrispondenza a proposito della giornata di mobilitazione del 17, ci diceva in fuori onda di uno sgombero di una scuola avvenuto stamattina, dico bene? Esatto, esatto. Ciao a tutti. Stamattina il liceo Sabri, che è entrato in occupazione dopo la giornata dell'11, ha subito uno sgombero stamattina con 5 camionette della polizia che sono entrate dentro per futili motivi, naturalmente con la rottura di una macchinetta, naturalmente ha tentato di entrare, dopo aver minacciato tutti gli studenti di raccogliere impronte digitali, quindi rientrano sempre in quel contesto di intimidazione che anche era successo anche a Roma, no? Se non ricordo male, il 3 novembre, il 3. Qua a Bologna, dopo 4 giorni di occupazione, altre scuole che stamattina hanno iniziato ad occupare, il liceo Sabri è stato sgomberato, da qui naturalmente non ci facciamo fermare sicuramente da questa cosa, proprio adesso sto andando a un'assemblea cittadina appunto che rilancerà sulla giornata del 17 che è già stato lanciato qua a Bologna, in piazza San Francesco, come giornata di blocchi, block day, quindi anche quella giornata scenderemo in piazza con tutti i collettivi delle varie scuole, tutte le scuole che entreranno in occupazione anche da oggi e dai giorni successivi, forti anche dal fatto che una risposta sicuramente dovrà essere data al fatto intimidatorio che è successo oggi, prima volta che a Bologna succede un fatto di questo tipo qua, da ormai da 20 anni, stiamo capendo magari forse anche il post Berlusconi non sarà tanto meglio, diciamo, quindi da questo sicuramente ripartiamo, 17 novembre block day a Bologna, sarà sicuramente la dinamica di blocco selvaggio all'interno della metropoli, quindi blocco la circolazione, che in comunanza di tutta Italia penso che sarà una gran bella giornata. Questo sicuramente. Senti, ci vuoi lanciare l'appuntamento del 17 l'appuntamento, preciso, il concentramento? Certo. L'appuntamento è in piazza San Francesco alle ore 9:30 e da tutti davanti alle scuole di tutta Bologna partiranno i cortei già dalla mattina che dalle 8 alle 9 saranno già bloccare la circolazione per raggiungere il concentramento. Quindi 9:30 piazza San Francesco, block day a Bologna, 17 novembre. Perfetto, grazie mille, naturalmente massima solidarietà da tutti gli studenti e tutte le studentesse da Roma per questo sgombero infame di stamattina, teneteci aggiornati se ci saranno novità. Vi ringrazio a tutti e a tutte, buona giornata. Buona giornata anche a te, ciao. Ciao, ciao, ciao. E prima era stata interrotta verso la metà la banda Bardot con Sempre Allegri, come non ascoltarla? Datemi mulini a vento, le chiavi del convento, la soluzione a tutti i difetti miei è la solitudine, ma non la vorrà. All'attacco, miele e tabacco. All'attacco, miele e tabacco. Son nato sulle ossa rotte, dalla parte più forte. La fortuna è un fatto di geografia. Voglio un tuo cavallo armato di energia. All'attacco, miele e tabacco. presto finire. Non lascerò timone al tempo, guardo l'orizzonte ogni momento, cerco soluzioni e trucchi di magia, credo che alla fine arrivi la cavalleria. All'attacco, miele e tabacco e vino nero, contro l'acidità grido senza permesso, senza rumore nessuno sentirà. Datemi mulini a vento, le chiavi del convento, soluzione a tutti i difetti miei era solitudine, ma sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, male al ricco, al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo. Sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, male al ricco. Eccoci appunto, finita la canzone della banda Bardò che ci piace tanto, facciamo l'ultimo collegamento per riassumere un po' la giornata del 17 che sarà, e quindi un collegamento dall'Assemblea Cittadina di Roma. Ci senti? Sì, ciao a tutti, mi sento ecco, bene. Torniamo in casa, abbiamo già parlato della giornata del 17, sappiamo che è in corso l'Assemblea Cittadina, se c'è qualche aggiornamento, cosa si prevede per questa giornata? Beh, un po' i discorsi che stanno già girando sia su internet sia vari comunicati che stiamo facendo uscire. In realtà noi abbiamo, è stata questa giornata prima di tutto il cambio politico di questo paese, però quello che ci siamo prefissati di dire sono comunque i soliti discorsi che portiamo in piazza dal 7 ottobre e con determinazione vogliamo riproporre anche stavolta. Di opposizione alla crisi, la voglia di non pagare il debito e d'opposizione al piano d'austerity del governo e scusate un attimo, qua l'assemblea è un po' un problema e niente, quindi un po' i temi che stiamo portando in piazza quest'ultimo periodo, abbiamo portato in piazza il 3 novembre e in più riproporremo la nostra opposizione al divieto di manifestare nel primo municipio posto al sindaco Alemanno, che proprio in questi giorni viene ridiscusso. Su tutto questo, avendo visto anche come sono state un po' le evoluzioni di movimento, visto le ultime azioni degli ultimi giorni, la voglia repressiva del vecchio governo, che anche se adesso è cambiato non pensiamo che ci siano molti cambiamenti sia su questo piano sia poi effettivamente su tutto quanto ci prospetterà, soprattutto sul piano economico, quindi anche tutto contro tutto questo. Stiamo organizzando proprio ora, quindi quello dicevo era un po' problematico perché ci si avvicina a questa data che riteniamo importante, è una data che verrà condivisa da molte città d'Italia e del mondo, quindi rientra un po' nel percorso di mobilitazione internazionale che quest'anno sta prendendo molto piede e sta dando un forte colpo a questo sistema capitalista dove, per ricitare uno dei vari discorsi che girano, noi siamo il 99% e l'uno continua a provare a bloccarsi ma non ci fermerà. Quindi sulla giornata di per sé noi riproponiamo questi temi che abbiamo approfondito anche in questo periodo, oltre che con le proteste anche all'interno delle scuole, e vogliamo riportarli ancora una volta in piazza per continuare a far sentire la nostra voce. Quindi il 7 novembre inizierà un po' così per noi e poi insomma riporteremo in piazza le nostre pratiche. Abbiamo detto che il divieto non ci piace e l'avremmo violato il 3, l'abbiamo violato, lo rivioleremo il 17 abbiamo preso pratiche determinate in tutte le nostre manifestazioni e continueremo a portarle avanti. Perfetto, noi ti ringraziamo, allora lanciamo ancora una volta in chiusura l'appuntamento alle 9 a Piazzale Aldo Moro e niente, perciò chiudiamo qui la puntata di Region Air, sono le 17 e 2 minuti primi sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, vi lasciamo al martedì autogestito da femministe e lesbiche e qui si chiude la puntata di questo martedì 15 novembre 2011 di Rage on Air!